Le 13:02. GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large. Morti in Calabria per il maltempo, a Roma è attesa per le 18 la piena del Tevere. Il Senato americano dice no al piano per l'auto, in pesante calo tutte le borse mondiali. Parla Napolitano, immodificabili i principi fondamentali della Costituzione. Migliaia in corteo in tutta Italia per lo sciopero della CGIL, il governo cambi, dice Epifani. Pesce congelato da 3 anni venduto per fresco e la Guardia Costiera fa scattare l'operazione di controllo. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. E da Simone Spezzi. Prima di parlare del maltempo, Simone, un rapido flash su come stanno andando le borse. Sì, sono ancora molto pesanti. L'S&P MIB in questo momento perde quasi 5 punti percentuali, il MIBTEL il 4,36%. Tra pochissimo ci collegheremo con Deborah Rosciani per qualche dettaglio in più. Ma andiamo ora a Roma, dove la situazione maltempo è ancora difficile. Si attende per le 18 la piena del Tevere. Lì si trova, appunto, sul bordo del fiume, potremmo dire, Francesca Malaguti. Buongiorno, c'è ormai una discreta folla qui a Ponte Milvio che insieme a vigili del fuoco, infermieri della Croce Rossa e addetti della Protezione Civile guarda il fiume e attende l'ondata di piena. Inizialmente era prevista arrivare qui tra le 12 e le 14 di oggi, ora invece la previsione è posticipata tra le 18 e le 20, anche perché il Tevere è esondato in altri punti come a Orte e quindi il flusso è diminuito. Il livello del fiume è ora di circa 12 metri, il più alto, pensate, da 40 anni a questa parte. Gli argini del Tevere in questa zona reggono 17 metri. Non si sa che livello si raggiungerà con la piena, ma questa mattina un funzionario della Protezione Civile ci ha spiegato che il rischio più concreto è che l'acqua esondi dai tombini e che quindi gli allagamenti possano giungere da lì. Intanto sono ancora tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco, circa 100 questa notte e altri questa mattina. E c'è preoccupazione all'isola Tiberina, quindi un po' più a valle, rispetto a Ponte Milvio, perché il livello del fiume si sta pericolosamente avvicinando alla barriera dell'ospedale Fate Bene Fratelli che sorge proprio sull'isola. Per il momento da Roma. Francesca, quindi c'è il rischio che esondi dai tombini e che non esondi, diciamo così, dalle rive il Tevere. Sì, esattamente. Il funzionario ci spiegava appunto che il rischio più concreto, anche se poi nessuno sa che cosa accadrà all'arrivo dell'ondata, comunque è che l'acqua esondi dai tombini fognature e che quindi gli allagamenti possano arrivare in questo modo. Grazie allora Francesca Malaguti, collegata con noi da Roma. I problemi del maltempo non riguardano però solo la capitale, Simone. Sì, nel sud del paese ci sono problemi, nubifragi, vento forte, mareggiate colpiscono anche oggi Puglia, Sicilia e Calabria, dove questa mattina è stato recuperato il corpo della terza vittima appunto in Calabria. Si tratta di un 26enne morto in un incidente stradale causato dalla pioggia, mentre ieri due persone avevano perso la vita per il crollo di un ponte e per la caduta di un albero. Particolarmente critica la situazione nella piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, dove per l'esondazione di un fiume 40.000 persone sono senza acqua potabile. Pino Praticò, comandante della Protezione Civile di Gioia Tauro, al microfono di Monia Melis. Il fiume del Domaneto Budello è uscito fuori dai margini, però ha colpito fortunatamente soltanto alcune abitazioni che erano vicine con alcuni negozi, quindi i danni si sono un pochino contenuti lì. Fortunatamente questa mattina alle 2 è rientrato, però un'infiltrazione di acqua anche nel fiume è andata dall'acquedotto, dove già ieri sera alcuni rubinetti delle abitazioni l'acqua era un pochino rossastra. Allora per un'emergenza è stata sospesa sia l'erogazione dell'acqua per tutta la mattinata, anche il pomeriggio finché non si rinnovano i tubi. Le scuole sono state chiuse, questo in alcuni centri, non solo a Gioia Tauro ma anche nella piana di Gioia Tauro, oggi e domani, perché non sono impraticabili le strade, quindi gli studenti che sono pendolari, alcuni pendolari, anche i professori e maestre, non possono arrivare sui posti di lavoro. Situazione difficile per gli spostamenti in molte città italiane, anche a causa dello sciopero generale indetto dalla CGIL contro la politica economica del governo. Da segnalare però, Alessandra? Sì, che è stata revocata comunque l'agitazione per quanto riguarda il settore ferroviario. Per quanto riguarda i mezzi pubblici, oggi a Roma e a Venezia circolano regolarmente proprio per venire incontro alle difficoltà dei cittadini causate dal maltempo. Ma veniamo alle manifestazioni. Scusate, poco fa l'intervento di Guglielmo Epifani a Bologna, importante sul fronte politico anche la manifestazione di Roma. Dalla capitale, Andrea Viali. Andrea. Sì, è così Simone, cortei e manifestazioni sono in corso, stanno terminando in questi minuti in tutta la penisola, in molte città, nonostante il maltempo di cui avete parlato. L'iniziativa principale è quella che c'è stata a Bologna, dove sono scese in piazza, secondo gli organizzatori, almeno 200.000 persone, e a Bologna c'era anche il segretario generale della CGIL Epifani. Sentiamo cosa ha detto. I primi dati dello sciopero sono molto confortanti e molto buoni, soprattutto nelle fabbriche del nord. Si confermano le ragioni, spero che il governo, come è avvenuto con la Gelmini, possa cambiare marcia. Ecco, a Bologna è stato rispettato anche un minuto di silenzio per ricordare i morti sul lavoro, così come a Roma, dove sono stati invece 3 i cortei che hanno sfilato nelle vie del centro sotto una pioggia battente. A quello della CGIL hanno preso parte anche diversi esponenti dell'opposizione, l'ex presidente della Camera Bertinotti, l'ex segretario di Rifondazione Comunista Giordano, c'era anche Anna Finocchiaro del Partito Democratico, partito che nei giorni scorsi, lo ricordiamo, si è diviso sull'eventualità di aderire o meno alla mobilitazione della CGIL, alla quale invece partecipa l'Italia dei Valori. Ma a scendere in piazza, come dicevo, a Roma non c'era solo la CGIL, sono stati anche i COBAS e gli studenti, alcuni dei quali si sono diretti per protestare contro il Ministero dell'Istruzione, appunto al Ministero di Viale Trastevere. Inevitabilmente sono stati molti i disagi per il traffico, anche per il maltempo. Per il momento è tutto. Grazie Andrea Viali, lo sentivate anche gli studenti in piazza, cosa che è avvenuta anche a Milano, dove appunto lo sciopero della CGIL si è nuovamente, insomma, unito il fronte di chi protesta contro la riforma Gelmini, quindi studenti delle scuole superiori e insegnanti. Marco Lignana ha raccolto alcuni pareri. È una mezza vittoria, perché il problema grosso dipende dalla finanziaria, saranno i tagli, per cui se le scuole non avranno più fondi non potranno avere l'organico attuale, e quindi anche se volessero continuare ad avere le due maestre, piano piano nei 3 anni non avranno più la possibilità di farlo. Quella di ieri è sicuramente una marcia indietro, però non siamo ancora arrivati ai nostri risultati, perché i tagli restano, e quindi è per questo che stiamo manifestando. Differire di un anno la riforma delle scuole superiori non significa aver abrogato la legge 133, che, ricordiamolo, è la legge che taglia 130.000 e passa posti di lavoro, per non contare i posti di tutti quei precari, come lo sono io, che da anni lavorano nella scuola pubblica con cattedre o spezzoni fino al 30 giugno. Più che altro, secondo me, è una farsa questa. Però comunque a livello mediatico comunque fa risultare una certa, tra virgolette, vittoria. Con l'approvazione per l'anno prossimo delle scuole, della riforma scolastica, è già un passo avanti. La Gelmini, diciamo che marcia indietro, potrebbe anche andare bene, ma continuare comunque a cambiare questa sua decreto che non va assolutamente bene. Tutto questo mentre il mondo politico si sta occupando di riforma della giustizia e di riforma della Costituzione. Vincenzo Miglietta, oggi un importante intervento del Capo dello Stato. Cosa ha detto Giorgio Napolitano? Secondo me è così il nuovo richiamo del Capo dello Stato sul ruolo della fondazione del nostro paese. Scusate, non siamo in grado di sentire Vincenzo Miglietta bene. Vincenzo? Sì, come dicevo, nuovo richiamo del Capo dello Stato sul ruolo della carta fondativa del nostro paese. I principi fondamentali della Costituzione repubblicana sono fuori di discussione, nessuno può pensare di modificarli o alterarli, ha detto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ricevendo al Quirinale i membri della FAI. E questo ha sottolineato il Capo dello Stato, nonostante quanto si discuta, argomento complicato, su cosa è possibile e opportuno modificare e che cosa no nella Costituzione. Il richiamo è arrivato oggi dopo una settimana in cui le parti politiche hanno discusso anche in modo acceso su una possibile modifica alla Costituzione nella parte dove si parla di giustizia, separazione delle carriere ed azione penale obbligatoria tra tutte. Secondo alcuni, quelle di Napolitano sarebbero rivolte anche a Berlusconi, dopo che quest'ultimo ha detto di voler cambiare la Costituzione senza l'opposizione. Da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Deborah Rosciani, ci sei? Sono qua. Allora, il Senato americano non ha approvato il piano di salvataggio del settore auto, e la borsa? E la borsa è pesantissima, è stata già pesante ieri sera a Wall Street, stamattina anche l'Asia si è svegliata altrettanto male, con cali fra tutti i principali indicatori del mercato asiatico nell'ordine del 3, 4, 5, anche 6 punti percentuali, e l'Europa risponde altrettanto male, Parigi -5, Francoforte Francoforte -4,43%, Londra -3,58%, Milano -5%, borsa che a causa del motivo che avete appena indicato cancella tutti i rialzi che aveva messo a segno nelle ultime sedute, per cui la preoccupazione stamattina primeggia fra gli investitori. Tra l'altro, oltre ai titoli automobilistici, stanno di nuovo andando piuttosto male i titoli del settore bancario. A Piazza Affari il peggior titolo della giornata è Intesa San Paolo, dopo le dimissioni del numero 2 del gruppo Pietro Modiano, che sta perdendo quasi il 10%. Grazie Deborah Rosciani. Simone, parliamo un po' di Italia da esportazione. Sì, l'Italia da esportazione del cinema è quella del film Gomorra, che è candidato ai Golden Globe come migliore film straniero. La strada per l'Oscar si fa più facile per Gomorra. I Golden Globe sono i riconoscimenti assegnati ogni anno dall'Associazione della Stampa Estera di Hollywood. Aprono la stagione dei premi e soprattutto sono considerati indicazioni attendibili di quello che potrebbe succedere sulla via per il Kodak Theater. In attesa di scoprire le candidature per le statuette dell'Academy il 22 febbraio, il film di Matteo Garrone è entrato nella cinquina delle nomination per i Globi. Ma chi saranno gli avversari di Gomorra? No! In cella. Tanto domani esco. Ferma! Il primo è il tedesco La Banda Bader-Meinhof di Uli Edel. Presentato fuori concorso al Festival di Roma, è uscito in sala il 31 ottobre. Ricostruisce i 10 anni di piombo che insanguinarono la Germania. Polemiche in patria per una ricostruzione fedele della cronaca, ma senza una condanna dei protagonisti. Non è ancora uscito in Italia Everlasting Moments, film svedese diretto da Jan Troell, che aveva già ottenuto una nomination nel 71 con Gli Emigranti. Narra la storia vera della prima fotografa svedese, Maria Larsson, nonna della moglie dello stesso regista. In prison, je mettais toujours des livres à côté de mon oreiller, une sorte de rempart. Dell'altro côté del mondo. Uscirà da noi il 30 gennaio Ti amerò sempre, primo film girato dallo scrittore francese Philippe Claudel. Juliette torna a Nancy dopo aver trascorso 15 anni in prigione. Ritrovata Léa, sua sorella minore che l'accoglie in casa sua, Juliette vivrà rinchiusa in un'altra prigione fatta di dolore e di segreti inconfessabili. L'unica soluzione è che tu cerchi di scoprire cosa è successo a Sabra e Shatila e allora forse riuscirei a ricostruire qual è stato il tuo ruolo. Arriva da Israele il quarto avversario di Gomorra, Waltz with Bashir. Nell'anno di Wall-E, un film d'animazione candidato anche tra le pellicole straniere. Disegni scarni e inquietanti per Harry Folman, che ricostruisce il massacro del 1982 dei profughi palestinesi dei campi di Sabra e Shatila, il 9 gennaio nei nostri cinema. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. I principi fondamentali della Costituzione sono fuori discussione, nessuno può pensare di modificarli o alterarli. Le parole sono del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, questo dice il Capo dello Stato, al di là di quanto si discuta su cosa è possibile e opportuno modificare e cosa no nella Costituzione. A Roma si attende l'ondata di piena del Tevere prevista per le 18, mentre continua a piovere. In mattinata c'è stata anche l'esondazione della Niene, chiusa la stazione Tiburtina per allagamenti nelle campagne. Alle porte della capitale, evacuati numerosi casolari. E situazione critica per il maltempo nel sud, in particolare in Calabria, dove sono 3 in tutto le vittime. Nella provincia di Reggio, i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile sono al lavoro da ieri. Molte strade sono chiuse al traffico per frane ed allagamenti. Sentiamo Pino Praticò della protezione civile di Gioia Tauro. La situazione brutta è stata più che altro nella provincia di Reggio Calabria, ma nella piana di Gioia Tauro, dove sono i paesi limitrofi, specialmente quelle di montagna. Sono rimasti tutti isolati fino a questa mattina alle 4. Non riuscivano a passare, sono stati bloccati lì 2 pullman e alcune famiglie sulle macchine. Dopo 3 ore, diciamo, questa mattina sono tutti quanti in salvo. Il Senato americano ha detto no agli aiuti per il settore auto e la notizia colpisce tutte le borse mondiali. Pesantissimi ribassi questa mattina in Asia. In Europa cali intorno ai 5 punti percentuali. Oggi è il giorno dello sciopero generale della CGIL contro la politica economica del governo. Cortei e manifestazioni nelle principali città italiane. L'appuntamento principale a Bologna con il leader Guglielmo Epifani. I nostri obiettivi sono giusti, dice, chiediamo al governo di affrontare la crisi che ha già effetti pesanti. Si va verso un Ecofin straordinario il 18 dicembre per affrontare la crisi economica. economica. La notizia emerge dal Consiglio europeo di Bruxelles, dove i leader si stanno confrontando sul pacchetto clima. Su questo l'accordo sarebbe vicino. Oggi la Svizzera entra nello spazio europeo Schengen per la libera circolazione delle persone. Il ministro ticinese alla giustizia e agli interni, Luigi Pedrazzini. Io non credo che chi arriva quest'oggi dall'Italia troverà un grande cambiamento, perché una parte delle dogane fra la Svizzera e l'Italia, da parte svizzera, non è già più presidiata e le dogane principali continueranno ad avere una presenza di guardie di confine. Questo perché la Svizzera, pur essendo entrata nello spazio di Schengen, non è ancora aderito all'Unione Doganale Europea, per cui ha ancora la possibilità, il diritto di controllare le merci. È il tema più spinoso che sta affrontando il Consiglio europeo riunito da ieri a Bruxelles, che si concluderà solo quando i 27 avranno raggiunto un'intesa. Parliamo del pacchetto clima, il cosiddetto 20-20-20. Il nodo da sciogliere è sempre lo stesso, ossia la diminuzione delle emissioni inquinanti delle industrie del 20%, ma forse siamo vicini alla quadratura del cerchio. Enrico Brivio da Bruxelles, buongiorno. Proprio in questi istanti fonti diplomatiche ci dicono che l'accordo è stato raggiunto, è stata indetta la conferenza stampa della presidenza francese, per cui diciamo l'accordo è stato praticamente raggiunto anche sul clima. Adesso dovremo verificare l'ufficializzazione di questo. Senz'altro mattinata prima si è raggiunto l'intesa sulla tabella di marcia per la ratifica di Lisbona da parte d'Irlanda e sul piano di rilancio dell'economia. Il punto più spinoso era rimasto questo del piano clima per il post-Kyoto, cioè gli sforzi per la riduzione delle emissioni da fare dopo il 2012. Sappiamo che molte cose sono state ottenute anche dall'Italia tra le richieste che erano state avanzate, in particolare una quota del 30% dei permessi di emissioni gratuiti per le industrie manufatturiere. Grazie ad Enrico Brivio, collegato con noi da Bruxelles. Ricordiamo, il Consiglio affronta anche il tema della crisi, insomma dei piani che i singoli stati dovranno adottare per affrontare questo momento di crisi economico-finanziaria. A proposito di crisi? E a proposito di difficoltà dell'economia, come andrà la stagione invernale dal punto di vista turistico e come stanno cambiando i comportamenti degli italiani? Come ogni anno il CISET, Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica, ha interpellato 500 operatori turistici come albergatori e tour operator e fatto le previsioni. Che cosa emerge, Alessandra, tu che li hai sentiti? Beh, emerge che quest'anno gli operatori del settore, fino ad aprile del 2009, a questo periodo si riferisce insomma l'indagine, sono piuttosto pessimisti, sia gli operatori che di consueto il CISET sente, sia da quest'anno anche gli operatori della Federturismo che aderiscono a questa indagine. Sentite un po'. Sembra che ci sia tendenzialmente un po' di pessimismo, nel senso che secondo le indicazioni fornite dagli operatori turistici nazionali, tra novembre 2008 e aprile 2009 gli arrivi dei turisti, sia stranieri che italiani, dovrebbero essere in calo intorno al meno 2%, meno 2,5% per gli stranieri, meno 2,8% per gli italiani, mentre per quanto riguarda le presenze, ossia i pernottamenti, dovremmo essere sul meno 1,8% per gli stranieri e un meno 2% per gli italiani. Italiani rispetto al corrispondente periodo del 2007-2008. Ci sono però dei settori che andranno meglio? Secondo gli operatori, chi dovrebbe andare meglio è la parte legata al turismo fitness e benessere, come il turismo culturale d'arte e l'agriturismo e il turismo verde in genere. In che modo la crisi sta cambiando il comportamento degli italiani per quanto riguarda il turismo? Crescono i consumatori di fascia medio-bassa, si mantengono quelli di fascia alta, quella che sta calando è la fascia media. La sensazione è che quindi i turisti di fascia alta continueranno a viaggiare, però chiederanno più qualità in relazione al prezzo. Per quanto riguarda i viaggiatori di fascia media medio-bassa, probabilmente ci sarà chi ridurrà le vacanze, ma magari si tenta di non rinunciare a una piccola vacanza cercando nuove formule, quindi si accorcia la durata del soggiorno, si scelgono destinazioni più facilmente raggiungibili, quindi magari vicine a casa o comunque più a buon mercato, si tenta di risparmiare anche a destinazione. Beh, Simone, ci siamo dimenticati di dire però chi è che ci ha dato queste notizie, ed è Valeria Minghetti, una ricercatrice del CISET, Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica, e curatrice di questa ricerca. Allora, vigilia di Natale, dobbiamo riferirvi però di una truffa che va avanti da tempo, sulla quale sta lavorando la Guardia guardia costiera. Si tratta del pesce congelato mischiato a pesce scaduto. Ed ecco perché è scattata l'operazione Pesce OK, condotta dalla Capitaneria di Porto. Cristina Carpinelli ha intervistato Cosimo Nicastro, comandante appunto delle Capitanerie di Porto. Sulla scorta anche di importanti sequestri effettuati in tutte le parti d'Italia, da nord a sud, dalla Toscana in Puglia, abbiamo programmato in occasione delle festività natalizie un'operazione appunto battezzata Pesce OK, per garantire la qualità, la provenienza e la freschezza del pesce che troverà un posto d'onore sulla tavola degli italiani e di tutti i consumatori. Saranno impegnati tutti i comandi della Guardia Costiera presenti lungo le coste, con controlli a mare, controlli ai punti di sbarco, ma con controlli che seguiranno la filiera ittica, quindi dal momento della cattura appunto sino alla tavola del consumatore, quindi anche presso centri di distribuzione, pescherie, ristoranti, da adesso sino alla fine dell'anno. Restiamo in mare adesso e parliamo di vela con le vicissitudini. Non parliamo ancora di pesce da mangiare, ma sì, di vela stavolta. Sì, non di barche da pesca, insomma. Parliamo delle vicissitudini della prossima Coppa America, perché Luna Rossa ci sarà di sicuro. Ma mancano ancora la data e la sede della 33esima edizione. E a Luna Rossa me parla e te, io le domando si aspiette a me. Lei, Luna Rossa, la barca che ha fatto sognare gli italiani, ci sarà di sicuro. Dove? Ma alla prossima Coppa America. Quando? Nel 2010, o forse nel 2011, o forse chissà. Perché ecco, andar per mare di questi tempi è parecchio complicato, soprattutto se sei un marinaio stregato dalla vecchia brocca, dal 1851 il trofeo velico più ambito al mondo. Le iscrizioni per la prossima edizione, dopo i fasti di Valencia 2007, scadono lunedì 15 dicembre. Luna Rossa ha già fatto sapere che parteciperà, spinta dal gruppo Prada e dalla passione di Patrizio Bertelli. Il problema ora è capire se ci sarà la Coppa America, ancora imprigionata nella battaglia legale tra i detentori svizzeri di Alinghi e gli sfidanti più agguerriti, gli americani di BMW Oracle. Braccio di ferro intorno a regole e costi, sfida fra due degli uomini più ricchi del mondo, lo svizzero Ernesto Bertarelli e lo statunitense Larry Ellison. La sentenza definitiva si avrà solo il 10 febbraio 2009. Se vinceranno gli elvetici, allora via libera per la 33esima edizione dell'America's Cup, con quattro equipaggi italiani. Oltre Luna Rossa, anche Mascalzone Latino, Argo e Green Challenge. Ma se la Corte Suprema di New York darà ragione a Oracle, allora a giocarsi la Coppa saranno solo svizzeri e americani, in un duello rusticano tra due trimarani. Intanto, in attesa che passi la bonaccia, dal 31 gennaio molti equipaggi torneranno in acqua ad Auckland per le Louis Vuitton Pacific Series. In Nuova Zelanda regaterà anche un nuovo team azzurro, Italia Challenge. Vento in poppa, insomma, tra speranza e nostalgia, come spiega Vasco Vascotto, skipper della nuova sfida italiana. L'impatto della Coppa America nell'ultima Coppa America è stato tale per cui la gente si era appassionata sempre di più di nuovo a questo sport e diciamo che la gente si aspettava un'altra Coppa America molto velocemente. La Louis Vuitton è una regata con fascino particolare, ricorda ovviamente la Coppa America, i team saranno quelli di Coppa America e quindi sarà un'ottima occasione di vedere tutti in acqua. Luna Rosso. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Accordo raggiunto sul pacchetto clima al Consiglio europeo. La notizia è filtrata da fonti diplomatiche. Attesa a breve una conferenza stampa del presidente francese e presidente di turno dell'Unione europea, Nicolas Sarkozy. A Roma, attesa per le 18 la piena del Tevere, mentre il sindaco Alemanno sta valutando l'evacuazione della sede del CONI che si trova sul lungo Tevere. Tre barconi hanno rotto gli ormeggi, potrebbero essere affondati per evitare che facciano da tappo. E situazione critica anche nel sud, in particolare in Calabria, dove sono tre in tutto le vittime. Nella provincia di Reggio i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile sono al lavoro da ieri. Molte strade sono chiuse al traffico per frane ed allagamenti. I principi fondamentali della Costituzione repubblicana sono fuori discussione e nessuno può pensare di modificarli o alterarli. Le parole sono del presidente della Repubblica Napolitano. Questo, dice il capo dello Stato, al di là di quanto si discuta su cosa è possibile e opportuno modificare e cosa no. Oggi è il giorno dello sciopero generale della CGIL contro la politica economica del governo, cortei e manifestazioni nelle principali città italiane. L'appuntamento a Bologna con il leader Guglielmo Epifani. I nostri obiettivi sono giusti, dice. Chiediamo al governo di affrontare la crisi che ha già effetti pesanti. Sentiamo Epifani. I primi dati dello sciopero sono molto confortanti e molto buoni, soprattutto nelle fabbriche del nord. Si confermano le ragioni. Spero che il governo, come è avvenuto con la Gelmini, possa cambiare marcia. Il Senato americano ha detto no agli aiuti per il settore auto e la notizia colpisce tutte le borse mondiali. Pesantissimi ribassi questa mattina in Asia e in Europa, cali intorno ai 5 punti percentuali. Sono pessimisti i tour operator italiani che prevedono un'annata di difficoltà, lo dice il CISET, Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica, che ha interpellato 500 operatori. La curatrice dell'indagine, Valeria Minghetti. Tra novembre 2008 e aprile 2009 gli arrivi dei turisti, sia stranieri che italiani, dovrebbero essere in calo intorno al meno 2%, meno 2,5% per gli stranieri, meno 2,8% per gli italiani, mentre per quanto riguarda le presenze, ossia i pernottamenti, dovremmo essere sul meno 1,8% per gli stranieri e un meno 2% per gli italiani rispetto al corrispondente periodo del 2007-2008. Ratifié par les 27 États membres, puisque l'Europe à ce moment-là deviendra 28. Quello che state sentendo è il presidente francese, nonché presidente di turno della Commissione europea, Nicolas Sarkozy, che sta tenendo una conferenza stampa a Bruxelles. Lo ricordiamo, è stato raggiunto un accordo al vertice europea sulla questione clima. Naturalmente vi daremo conto sulle parole di Sarkozy durante il corso del GR Extra Large. Ma torniamo adesso alle cose italiane, anche se c'è molto d'Italia in questo accordo sul clima. Maestro unico facoltativo era il titolo di oggi del Corriere della Sera. Scuola cambia il maestro unico, era l'apertura di Repubblica. Gelmini riforma a metà è il titolo della Stampa. Alessandra, stiamo cercando di capire un pochino, no, se le cose sono cambiate oppure no davvero. Sì, perché la cosa che si è capita sicuramente è che la riforma delle superiori si farà nel 2010, è slittata, cioè l'applicazione non al 2009 ma al 2010. Per quanto riguarda invece il maestro unico, come dicevamo, oggi ci sono dei titoli un po' che ci hanno sviato. Insomma, cambia realmente qualcosa? Il ministro Gelmini dice no, le cose sono rimaste identiche al progetto di riforma che era già stato presentato. Allora, cerchiamo di capire qualcosa di più. Non ci sono cambiamenti rispetto a quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto 137, meglio conosciuto come riforma Gelmini. Solo forse è stato meglio chiarito in cosa consiste la riforma del maestro unico. Se andiamo infatti a riprendere il fatidico articolo 4, leggiamo. È previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di 24 ore settimanali. Nei regolamenti, prosegue l'articolo e questo è il punto nevralgico, si tiene comunque conto delle esigenze correlate alla domanda delle famiglie di una più ampia articolazione del tempo scuola. Questa frase, obiettivamente un po' criptica, contiene già quanto è stato più opportunamente chiarito ieri, e cioè che il tempo pieno rimarrà su domanda delle famiglie e che il maestro unico, meglio prevalente, riguarderà le classi a orario ridotto. Un altro punto è la questione della specializzazione dei maestri. Oggi i bambini delle scuole elementari hanno a disposizione due insegnanti, oltre a quelli di inglese e religione, uno per l'area logico-matematica e uno per quella linguistico-espressiva. Nelle classi a 24 ore queste competenze faranno capo ad un'unica figura, affiancata dagli insegnanti di lingua straniera e religione. Ma nel tempo pieno si manterranno le due specializzazioni oppure no? Francesco Scrima, segretario generale CISL Scuola. Questo attiene alla organizzazione che si dà alla scuola nella sua autonomia. Il tempo pieno viene assicurato e viene garantito così come ha funzionato fino adesso con la presenza di due insegnanti. Poi come si organizza? Ci pensa la scuola nella sua autonomia. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla vigilia dell'appuntamento politico abruzzese. Domenica e lunedì si vota per scegliere il presidente della regione. Elezioni anticipate, lo ricordiamo, indette in seguito alle dimissioni del presidente Ottaviano Del Turco, arrestato il 15 luglio scorso per uno scandalo tangenti legato alla sanità. I due principali candidati sono Giovanni Chiodi del Popolo delle Libertà e Carlo Costantini, deputato dell'Italia dei Valori, sostenuto dal Partito Democratico. Ieri abbiamo sentito il ritratto di Chiodi, oggi sentiamo quello di Costantini. È il candidato della coalizione che ultimamente vive la cosiddetta questione morale e in Abruzzo la questione è ancora più forte, visto che l'eredità politica lasciata dal centro-sinistra è quella di una giunta crollata insieme al suo presidente Ottaviano Del Turco, accusato di aver intascato milioni di euro di tangenti. Non sarà facile per Carlo Costantini raggiungere la poltrona di presidente. A sostenerlo il suo partito, l'Italia dei Valori, e il Partito Democratico, in un'alleanza che a livello nazionale scricchiola, per usare un eufemismo. Ma l'avvocato Costantini nella sfida contro il commercialista Chiodi ce la sta mettendo tutta e, a differenza del suo concorrente, alla politica anche romana è più abituato. Inizia il proprio impegno politico alla fine del 93, è stato consigliere comunale, assessore e sindaco di San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, poi è diventato consigliere regionale e comunale a Pescara, la sua città. Nel 2006 è eletto alla Camera sotto le insegne dell'Italia dei Valori. Nelle elezioni dell'aprile di quest'anno torna a Montecitorio sempre con l'Italia dei Valori. Anche lui, nonostante tutto, non ama definirsi un politico di professione. Molti mi dicono che sono in politica, ma io non me ne sono mai accorto. Io mi sento ancora un avvocato e sono certo che prima o poi tornerò alla professione e riuscirò anche a coltivare gli affetti della mia famiglia che gli impegni della politica mi hanno costretto a trascurare. Stefano Totoro, GR 24, Il Sole 24 Ore. Cosa c'è sui quotidiani stranieri oggi in edicola? Ce ne parla Michele Pignatelli. La crisi economica è in primo piano anche oggi sui quotidiani internazionali, crisi che negli Stati Uniti e oggi soprattutto il fallimento del piano di salvataggio del settore dell'auto. E allora, a titolo di apertura del New York Times, il Senato abbandona il salvataggio dell'auto dopo gli ostacoli posti dai repubblicani. In linea è sostanzialmente il titolo del Washington Post di oggi. Il Wall Street Journal apre invece con questa titolazione: gli economisti americani prevedono il declino più lungo dagli anni 30. Secondo un sondaggio del Wall Street Journal, la recessione finirà a giugno dopo ben 4 trimestri di calo dell'economia. L'altro grande tema trasversale è il vertice europeo in corso a Bruxelles. Apertura del Financial Times: Europa allineata per dilazionare le emissioni. Si profila cioè, scrive il Financial Times, un compromesso sulle emissioni di CO2. Dovrebbe essere più alta la percentuale di permessi gratuiti di inquinare, potremmo dire così. In prima pagina anche il francese Le Figaro si concentra sul clima e il titolo su una fotonotizia che raffigura Merkel e Sarkozy è "Clima, forcing di Sarkozy sulla Merkel". I due si sono incontrati anche questa mattina. Compromesso a ribasso si profila anche sulle riforme, sempre al vertice europeo. E il país, la UE fa un passo indietro nella riforma sulla ripartizione dei poteri. E tutto questo, spiega il giornale spagnolo, in cambio di un nuovo referendum in Irlanda sul trattato di Lisbona. Un po' più positivo, più ottimista è il titolo della tedesca Süddeutsche Zeitung sul vertice UE. La tabella di marcia per Lisbona, scrive la Süddeutsche, sta in piedi. Un altro tema che volevo segnalarvi oggi è la Grecia, la crisi greca con scontri e proteste in corso ormai da 6-7 giorni. Il titolo di apertura di Le Monde è "Grecia dalla crisi sociale alla rivolta dei giovani" e le cause indicate dal quotidiano internazionale francese sono malcontento economico, rabbia studentesca e vitalità dell'estrema sinistra. Il tema è sviluppato ampiamente anche dall'Herald Tribune, che parla della peggior crisi degli ultimi decenni, e dall'Economist. Prima di chiudere vi segnalo un titolo di prima pagina dell'Herald Tribune dedicato al calcio. Il titolo è "Cartellini rossi" e parla della lotta di due paesi, dei due paesi ospiti di Euro 2012, cioè Polonia e Ucraina, e racconta l'Herald Tribune una storia, almeno finora, di corruzione, ritardi nei lavori, con la Germania pronta a subentrare. Eh bien, eux auront droit de l'affecter aux producteurs d'électricité. Quello che state sentendo è ancora Nicolas Sarkozy, presidente francese, lo ricordiamo, la Francia è presidente di turno dell'Unione Europea. Conferenza stampa al termine del Consiglio Europeo. Sarkozy ha detto poco fa che è stato raggiunto un accordo unanime per quanto riguarda il piano di rilancio dell'economia. È stato raggiunto, e così ha confermato, un accordo per quanto riguarda la questione climatica, ancora non è sceso però nei dettagli. E per quanto riguarda la cosiddetta roadmap europea, ha detto che le garanzie richieste dall'Irlanda per indire un secondo referendum sul trattato di Lisbona saranno inserite nel trattato di adesione della Croazia, previsto intorno al 2010. Una notizia che arriva dalla Grecia, intanto perché nuovi gravi scontri tra polizia e dimostranti, riferiscono le agenzie, sono scoppiati ad Atene davanti al Parlamento, al termine della manifestazione degli studenti che si è svolta in mattinata. Naturalmente più avanti, appena li avremo, maggiori dettagli. È partita ieri pomeriggio da Milano l'avventura di Oltre, la spedizione italiana diretta allo stretto di Bering, che percorrerà 14.000 chilometri in fuoristrada fra la Siberia e l'Oceano Artico. Una grande avventura multimediale che seguiremo via radio e via web, che gli ascoltatori possono condividere guardando i dispacci dal Grande Nord e scrivendo anche alla spedizione. In collegamento con noi Peter Johannessen, ideatore e capo della spedizione. Allora Peter, la strada è tutta davanti a voi. Decisamente, perché se non erro siete a Courmayeur in questo momento, beati voi, ma la sfida è partita. La sfida è partita, Oltre è in moto, in questo momento devo riconoscere sto godendo uno dei monti bianchi più belli del mondo, perché è un monte bianco, più bianco che non si può. Ecco Peter, ma vogliamo anche dire ai nostri ascoltatori qual è l'obiettivo di questa vostra spedizione? Beh, ci sono vari obiettivi. Prima di tutto noi vogliamo ricordare il passaggio nord-est che Roald Amundsen fece nel 1918. Il secondo motivo, grazie a questa straordinaria esperienza di Roald Amundsen del 1918, noi vogliamo rifare una serie di ricerche scientifiche che vanno dalla rivelazione e rilevazione dell'atmosfera, dell'acqua, della flora, della fauna di tutta la Siberia. Di tutta la Siberia addirittura. Grazie Peter, e continueremo a sentirci naturalmente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. E grazie a Peter Johannessen e ai suoi 15 compagni d'avventura. Per seguirli www.radio24.it oppure www.elsole24ore.com, con Oltre lungo il passaggio a nord-est. Sono le 13.47 minuti, GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Accordo raggiunto sul pacchetto clima al Consiglio europeo, la notizia è stata confermata poco fa dal presidente francese Nicolas Sarkozy, che parla di consiglio storico. A Roma attesa per le 18 la piena del Tevere, mentre il sindaco Lemanno sta valutando l'evacuazione della sede del CONI che si trova sul lungo Tevere. Tre barconi hanno rotto gli ormeggi, potrebbero essere affondati per evitare che facciano da tappo. Situazione critica per il maltempo nel sud, in particolare in Calabria, dove sono tre in tutto le vittime. Nella provincia di Reggio, i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile sono al lavoro da ieri. Molte strade sono chiuse al traffico per frane ed allagamenti. Sentiamo Pino Praticò della protezione civile di Gioia Tauro. La situazione brutta è stata più che altro nella provincia di Reggio Calabria, ma nella piana di Gioia Tauro, dove sono i paesi limitrofi, specialmente quelli di montagna. Sono rimasti tutti isolati fino a questa mattina alle 4. Non riuscivano a passare, sono stati bloccati lì due pullman e alcune famiglie sulle macchine. Dopo tre ore, diciamo, questa mattina sono tutti quanti in salvo. Parla il presidente Napolitano e dice: i principi fondamentali della Costituzione repubblicana sono fuori discussione, nessuno può pensare di modificarli o alterarli. Questo, ha aggiunto il capo dello Stato, al di là di quanto si discuta su cosa è possibile e opportuno modificare e che cosa no nella Costituzione. Nuovi gravi scontri tra polizia e dimostranti sono scoppiati ad Atene davanti al Parlamento, al termine della manifestazione degli studenti che si è svolta questa mattina. Il Senato americano ha detto no agli aiuti per il settore auto e la notizia colpisce tutte le borse mondiali. Pesantissimi ribassi questa mattina in Asia, in Europa, cali intorno ai 5 punti percentuali. Oggi è il giorno dello sciopero generale della CGIL contro la politica economica del governo, cortei e manifestazioni nelle principali città italiane. A Milano ancora proteste contro i tagli alla scuola. Differire di un anno la riforma delle scuole superiori non significa aver abrogato la legge 133. A Gelmini diciamo che marcia indietro, potrebbe anche andare bene, ma continuare comunque a cambiare questa sua decreto che non va assolutamente bene. Più che altro secondo me è una farsa questa. Oggi la Svizzera entra con qualche settimana di ritardo rispetto al previsto nello spazio europeo di Schengen per la libera circolazione delle persone, nonostante la Confederazione Elvetica non sia ancora, lo ricordiamo, un paese dell'Unione Europea. Ma come spiega al microfono di Sergio Nava il ministro ticinese alla giustizia e agli interni Luigi Pedrazzini, non cambierà molto ai valichi di frontiera per chi entra da oggi in Svizzera. Io non non credo che chi arriva quest'oggi dall'Italia troverà un grande cambiamento nella situazione che ha conosciuto fino a ieri, perché una parte delle dogane fra la Svizzera e l'Italia da parte svizzera non è già più presidiata e le dogane principali continueranno ad avere una presenza di guardie di confine. Questo perché la Svizzera, pur essendo entrata nello spazio di Schengen, non è ancora aderito all'Unione Doganale Europea, per cui ha ancora la possibilità, il diritto di controllare le merci. Questo significa che nei valichi di frontiera più frequentati, dove vi è anche un maggior transito di merci, ci sarà ancora la presenza di guardie di confine che potranno effettuare dei controlli, però saranno dei controlli su una parte molto limitata di persone in transito e quindi praticamente ci sarà una buona scorrevolezza alla frontiera. Questo, ripeto, per i valichi principali, per quelli più piccoli già oggi non sono più presidiati. Ecco, quindi non avviene di fatto ciò che è avvenuto nel dicembre dell'anno scorso per i paesi dell'est, parliamo ad esempio della Slovenia, dove fisicamente sono state smantellate le frontiere. No, la frontiera rimane, la dogana resta. La dogana resta appunto perché la Svizzera non è nell'Unione Doganale Europea e quindi viene ancora effettuato un controllo delle merci. Per questo ingresso di Schengen avete già un programma di festeggiamenti? A livello cantonale non c'è nessuna manifestazione in programma. A livello svizzero quest'oggi ci sarà una tranquilla manifestazione a Basilea e poi si prevede in marzo una manifestazione più importante per segnalare questa entrata della Svizzera nello spazio di Schengen. Ora andiamo in Russia. Un dissidente che si è alzato per contestare un passo del discorso con il quale il presidente Medvedev esaltava la nuova costituzione democratica è stato portato a forza fuori dal teatro del Cremlino dalle forze di sicurezza. Medvedev ha tentato di fermare i suoi uomini dicendo loro di lasciare chi ascoltasse fino in fondo, ma senza risultato. Uomini che hanno agito dunque quasi con una sorta di riflesso condizionato. Polemiche intanto intorno alla perquisizione compiuta dalla polizia nella sede di una delle più importanti ONG russe. Unione Europea e Stati Uniti hanno preso le difese della ONG russa Memorial, la cui sede di San Pietroburgo è stata vittima di una perquisizione della polizia. L'associazione Memorial, tra le più note e storiche del panorama delle organizzazioni non governative per i diritti umani in Russia, ha infatti denunciato il sequestro di tutti i dischi rigidi e i supporti dei suoi computer nella sede appunto di San Pietroburgo, un fatto che mette a repentaglio l'esistenza stessa del centro e soprattutto il materiale contenuto negli archivi. 100 anni di storia russa con informazioni biografiche su oltre 50.000 vittime della repressione staliniana, i risultati delle ricerche sui siti di seppellimento, una collezione di 10.000 fotografie, raccolte di storie orali e scansione di materiali storici acquisiti da archivi privati. Yuli Rybakov, uno dei responsabili della ONG, ha insinuato che la perquisizione potrebbe essere stata una semplice vendetta dopo la proiezione nei locali di Memorial di un film sull'ex spia del KGB Alexander Litvinenko, avvelenato in circostanze misteriose a Londra nel 2006. La procura di San Pietroburgo intanto si rifiuta di commentare, limitandosi però a confermare la perquisizione. Memorial è stata candidata nel 2007 e nel 2008 al premio Nobel per la pace. Gigi Donelli, GR24, Sole 24 Ore. E come sempre il venerdì la rubrica sulla sicurezza stradale. Parliamo questa volta, sempre relativamente alla sicurezza stradale, della precedenza di cortesia. Non è un concetto chiaro a tutti, anche perché forse sulla strada non molti siamo cortesi, diciamo, tutti abbiamo qualche momento in cui pecchiamo un po' di inciviltà o di mancanza appunto di educazione e di cortesia. Vorrei chiederlo, ovviamente come sempre, a Silvio Scotti, comandante della Polizia Municipale di Monza, che cos'è e anche di spiegarci una cosa che avviene spesso in una situazione di incrocio, per esempio, un po' complesso, in cui non si riesce a svoltare, qualcuno ci permette di passare, ma spiegaci tu, Silvio. Certamente. Allora, la precedenza di cortesia si sostanzia nella cessione del diritto di precedenza, anche se è un termine un po' particolare perché non si può dire che esista un vero e proprio diritto di precedenza nel codice della strada. Si cede questo diritto ad un altro utente per agevolare la circolazione. Proviamo ad immaginare la situazione più classica, cioè la svolta a sinistra. Sì, a un incrocio, un semaforo. Esatto, a un incrocio, quando magari esiste un traffico molto importante in quel momento e un'autovettura che ci viene di fronte si ferma e ci cede la precedenza per agevolare la nostra svolta a sinistra. In quel caso si genera una situazione piuttosto pericolosa, perché il problema è quello di capire che la cessione della precedenza riguarda esclusivamente il soggetto che ha deciso di cederla. E la giurisprudenza ci dice che noi, nello svoltare a sinistra e quindi approfittando di questa cessione di precedenza, dobbiamo accertarci che anche gli altri utenti abbiano la stessa intenzione. Ovvero, per esempio, possiamo pensare ad un ciclomotore che sta superando i veicoli, oppure ad una bicicletta che sta comunque procedendo sulla sua destra. Nel caso di un urto con l'utente che non ci ha concesso la precedenza di cortesia, ahimè, non andremo esenti da responsabilità. Cioè, se mi è stato permesso, grazie alla cortesia di chi mi veniva di fronte con la macchina, di girare a sinistra, se dal suo lato destro, arriva sempre in quella direzione sua di marcia una bici o una moto verso di me che sto svoltando, ci vado di mezzo io se la moto o la bicicletta cozzano con me e non si sono fermate a loro volta come ha fatto l'utente cortese? Precisamente, può sembrare un controsenso, ma è l'applicazione puntuale delle regole della circolazione, anche se molte volte il comportamento ispirato anche al buonsenso dovrebbe dettare la cessione del nostro diritto di precedenza, anche perché molte volte la situazione è così congestionata che anche superare quell'incrocio non è che migliori la nostra posizione. Comunque, a maggior ragione, mentre ringrazio Silvio Scotti, dico io, Roberta Giordano, vi invito come sempre a guidare con intelligenza. Accordo raggiunto sul pacchetto clima a Bruxelles, sono molto soddisfatto, ha detto poco fa il ministro Frattini. A Roma attesa per le 18 la piena del Tevere, in Calabria 3 morti per il maltempo, appena salvati 8 boy scout che erano rimasti bloccati sull'Etna. Parla Napolitano, immodificabili i principi fondamentali della Costituzione. Migliaia in corteo in tutta Italia per lo sciopero della CGIL, il governo cambi, dice Epifani. Il Senato americano dice no al piano per l'auto, in pesante calo tutte le borse mondiali. È tutto per questa edizione del GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco. Simone Spezia. Al coordinamento Daniele Biacchessi, in regia Fabio Cantadori. XL torna lunedì alle 13. GR24, il sole 24 ore. Direttore Gianfranco Fabi.